La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al percorso di integrazione economica europea. Ospite ai nostri microfoni Paolo Guerrieri, docente di economia dell'integrazione europea alla Sapienza di Roma e al Collegio d'Europa a Bruges e vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Torniamo a parlare di Europa a pochi giorni dalle elezioni per il Parlamento europeo e lo facciamo nel pieno della crisi globale in corso che pone, come sappiamo, sfide inedite all'intero continente. Lo facciamo ripercorrendo alcune delle principali tappe dell'integrazione economica europea attraverso il percorso che ci viene suggerito dal libro L'economia europea, scritto per il Mulino da Paolo Guerrieri e Piercarlo Padoan. Partiamo da quella che i due autori definiscono l'età dell'oro dell'integrazione europea, vale a dire il periodo di crescita e sviluppo pressoché ininterrotto che va dal 1957, quando vennero firmati i trattati di Roma, fino all'inizio degli anni 70. Gli anni che vanno dal 1957 al 1973 costituiscono un periodo di grande successo economico per i sei paesi fondatori. Belgio, Francia, Germania occidentale, Italia, Lussemburgo, Olanda. Una fase caratterizzata da rapida crescita, bassa disoccupazione e moderata inflazione. Lo standard di vita europeo registra un sorprendente rapido riavvicinamento a quello americano. L'abbassamento delle tariffe doganali determina nella struttura del commercio estero dei paesi comunitari una serie di effetti positivi, accompagnata da una forte espansione dei mercati interni dei Paesi membri. La dinamica sostenuta dai consumi si riflette positivamente sull'incremento degli investimenti. L'intero processo è accompagnato da un processo di diffusa liberalizzazione commerciale, multilaterale e di integrazione economica internazionale. Una vera e propria età dell'oro, dunque, che venne bruscamente interrotta all'inizio degli anni 70. L'esplodere della prima crisi petrolifera trova l'economia europea in condizioni di grande fragilità e di estrema dipendenza dalle importazioni di petrolio dei paesi OPEC. La disoccupazione cresce e supera il 5% nel 1977. I paesi europei corrono ai ripari senza una strategia comune di politica economica e così ogni paese segue la sua strada, un po' come sta avvenendo adesso, aumentando in tal modo il divario tra i paesi a economia più forte e strutturata e quelli con carenze più marcate. Nel periodo che va dalla metà degli anni 90 alla prima metà del decennio successivo, l'Unione Europea registra un netto rallentamento della propria crescita economica, mentre sull'altra sponda dell'Atlantico e nello stesso periodo, l'economia americana conosce un'accelerazione altrettanto netta. Il rallentamento macroeconomico è accompagnato da forti aumenti della disoccupazione, problemi che si stagliano sullo sfondo di importanti mutamenti negli scenari internazionali, a cominciare dai processi di globalizzazione dei mercati mondiali delle merci, dei servizi e dei prodotti finanziari. Sul fronte dell'occupazione si assiste al sostanziale fallimento della strategia di Lisbona, lanciata nel marzo del 2000, che avrebbe dovuto trasformare in 10 anni l'Unione Europea nell'economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva al mondo. Oggi l'Europa, con le istituzioni che non godono di grande popolarità, come si è visto nella bassissima affluenza al voto in occasione delle recenti elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, è alle prese, come sappiamo, lo dicevamo poc'anzi, con la più grave crisi economica del dopoguerra. Salutiamo il professor Paolo Guerrieri, docente di economia dell'integrazione europea alla Sapienza di Roma e al Collegio d'Europa a Bruges, nonché vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Il professor Guerrieri è coautore, insieme a Piercarlo Padoan, di questo interessante libro L'economia europea. Grazie professore per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, salve. Qual è oggi lo stato di salute reale dell'economia europea, professore? Beh, non è uno stato di salute florido per una ragione molto semplice, che l'Europa, come tutte poi le aree avanzate, non sta risentendo di una crisi globale, come sappiamo, di una crisi molto grave. E quello che preoccupa è che in realtà l'Europa era entrata in questa crisi in condizioni relativamente migliori, ad esempio degli Stati Uniti, che poi sono l'epicentro della crisi, e invece oggi si trova a dover fronteggiare una recessione che è addirittura più grave di quella americana. Quindi, come dire, questo è il segno che in qualche maniera lo stato di salute dell'economia europea non era floridissimo, perché l'Europa cresceva poco, perché c'erano forti squilibri. Questa crisi in qualche maniera sta rendendo le cose ancora più difficili, quindi da questo punto di vista diciamo che le sfide che si sono moltiplicate, ecco. Nessun passo in avanti è stato fatto sul fronte dell'integrazione delle politiche economiche, che poi è il vero problema dell'Europa. Possiamo dire che innanzitutto l'Europa, se in questo momento diciamo risente, ma in fondo si difende dai marosi della crisi, lo si deve proprio al fatto che in fondo la politica monetaria, soprattutto la moneta, è stato un grande passo avanti. L'unificazione monetaria, almeno per molti paesi che sono interessati, è stato un grande passo avanti. L'euro ha salvato letteralmente tante economie, è inutile nasconderci che anche l'Italia ha beneficiato, però dall'altro lato l'Europa non ha gli strumenti che invece in questa crisi servirebbero molto, che sono innanzitutto politiche di rilancio della domanda, perché sono solo nazionali, non sono europee, e poi sono ad esempio politiche di investimento europeo, possibilità di fare investimenti europei finanziati da risorse europee, è uno strumento di cui l'Europa non è ancora dotata, ecco. Quindi si possono vedere delle luci, l'euro, ma anche delle ombre, i punti di debolezza purtroppo in questo momento pesano addirittura di più. Professor Guerrieri, voi avete condotto un viaggio molto interessante nell'economia europea degli ultimi 50 anni. E quale Europa immagina per i prossimi 50 anni, i prossimi decenni quantomeno? Ma noi abbiamo cercato di ripercorrere appunto questi primi 50 anni e abbiamo messo in risalto che i problemi di cui l'Europa si è occupata in questi primi 50 anni sono stati soprattutto problemi interni all'Europa, il mercato interno, la moneta europea, l'allargamento e così via. Quello che noi notiamo è che in realtà le sfide che sono di fronte all'Europa nei prossimi 50 anni, diciamo così, sono ovviamente rafforzare la crescita interna, il mercato interno, difenderlo soprattutto e rilanciarlo, però sono anche soprattutto sfide all'esterno, perché il mondo è cambiato, nuovi attori si sono affacciati, basti citare la Cina, l'India, il Brasile. Il mondo non è più Stati Uniti e Europa, il mondo è una multipolarità che va governata. L'apporto dell'Europa sarebbe fondamentale, quindi se uno volesse auspicare un'Europa dei prossimi anni, un'Europa ovviamente in grado di rilanciare la crescita all'interno, ma un'Europa che è in grado di giocare un ruolo di attore, come dire, globale, di attore in grado di incidere sulle politiche di rilancio della governabilità. E da questo punto di vista, quindi, sia l'interno che l'esterno sono a questo punto dei terreni sui quali si misurerà il futuro dell'Europa e quindi del processo di integrazione europea. E a proposito di futuro, un'ultimissima questione, professore. Voi parlate in un paragrafo dei futuri benefici dell'allargamento. Come potremmo sintetizzarli per i nostri ascoltatori in breve? Ma l'allargamento ha avuto queste due facce. Dal punto di vista economico, i dati, le evidenze ci dicono che è stato un indubbio successo. Quello che è mancato e che ha reso quindi l'ingresso dei paesi e che in prospettiva renderà l'ingresso di nuovi paesi difficile è che non ci sono stati progressi sul piano degli strumenti istituzionali, dell'integrazione politica istituzionale. Quindi, come dire, nuovi paesi che hanno apportato nuove opportunità economiche, ma per governare l'Europa a 27, a 30, sono necessarie in qualche modo istituzioni rafforzate e rinnovate. Su questo terreno, come sappiamo, l'Europa ha un passo troppo lento e quindi è su questo terreno che vanno compiuti dei passi importanti, altrimenti qualsiasi nuovo ingresso sarà visto più come una minaccia che non un'opportunità.